Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di banche, svizzere, e lo facciamo basandoci su un libro, BSI fuori rotta, come si è giunti al crash asiatico della più antica banca ticinese, scritto da Luca Fasani e Francesco Lepori, due giornalisti della radio e della televisione della Svizzera italiana. Un libro in cui si racconta appunto questo scandalo nato a Lugano, ma praticato, diciamo così, in Asia, che ha comportato delle perdite per centinaia di milioni di dollari, uno scandalo che ha avuto una dimensione di 4 o 5 miliardi di dollari. Ne parliamo con Luca Fasani. Buonasera Fasani. Buonasera a voi. BSI fuori rotta, come si è giunti al crash asiatico della più antica banca ticinese? La prefazione del libro è di Paolo Bernasconi, le edizioni sono Casa Grande di Bellinzona. Ecco, BSI fuori rotta, forse alcuni ascoltatori non ricordano quanto è avvenuto, peraltro poche settimane fa, con questa banca, la più antica banca ticinese, una delle più note nell'ambito finanziario tra le banche ticinesi, e si parla appunto di crash, come si è giunti al crash asiatico. Allora, Fasani, un breve riassunto dell'argomento del libro. Ecco, crash, un crash diverso da quelli soliti, perché qui non abbiamo una banca che è andata in fallimento, anzi, è una delle banche più solide. Quel che è successo è che tra i vari passaggi di proprietà c'è stato un inciampo appunto asiatico. Banca della Svizzera italiana BSI è nota in Italia per essere stata di proprietà delle Generali, che poi per cambiamenti di strategia l'hanno venduta ad un proprietario brasiliano, BTG Pactual, che è anche lui coinvolto in uno scandalo in Brasile, Petrobras. Dopo un paio di mesi che aveva in mano la banca, l'ha venduta ad un'altra banca svizzera, EFG. E qui si arriva appunto a questo crash. La nostra autorità di vigilanza dice: cara EFG, la banca BSI la puoi prendere, ma la devi sciogliere entro un anno, perché qui è successa una cosa troppo grossa. Ecco, quindi è una storia bancaria, una storia che parte appunto dalla realtà di questa banca, una realtà che appunto in cui è stata interessata anche l'Italia, perché è stata controllata per un decennio circa dalle assicurazioni generali, e già mentre era controllata dalle generali si era cominciato a vedere qualche strategia che avrebbe poi portato alle vicende di cui si parla nel libro. Perché BSI, diciamo, come sbocco naturale avrebbe avuto l'Italia, che dal certo punto di vista del Ticino è un mercato enorme, ed è anche un mercato che BSI conosceva molto bene, difatti molti dei suoi clienti sono italiani. Quel che è successo è che Generali, già lei faceva banca in Italia e si stava espandendo in Asia, perciò gli è venuto naturale dire: no, tu qui in casa ci sono già io, piuttosto vieni con noi in Asia. E lì si è aperto un nuovo mondo che però aveva i suoi rischi. Ecco, quali sono stati questi rischi? Perché BSI innanzitutto ha scelto il mercato asiatico, un mercato molto particolare, e è stata coinvolta appunto in vicende che, diciamo così, puzzavano un po' da lontano. Perché non se ne è accorta subito? A un certo punto del libro si dice: prima gli affari, poi le regole. È stata questa in fondo la ragione di come si è arrivati a questo crash? Diciamo che andare in Asia, mano sul cuore, chi è che non vuole andarci? Ci dicono tutti che è il continente del futuro, dove si crea ricchezza, dove ci sono i nuovi ricchi. Cioè, per una banca essere lì, cioè, è il posto dove essere. Quel che è successo è che dopo una crescita, chiamiamola organica, un po' regolare, passo a passo, grazie alla crisi finanziaria o per colpa della crisi finanziaria, c'è stato un gruppo di transfughi da un'altra banca, che era Coutts, proprietà di Royal Bank of Scotland, che ha dovuto essere nazionalizzata, e questo gruppo, parliamo di 70-100 persone, sono arrivate in una botta in BSI. E cosa hanno portato? Hanno portato anche i clienti che già avevano, e fra questi clienti, chiamiamolo un faccendiere malaysiano e i suoi contatti, fra cui un fondo sovrano malaysiano. Ed è lì che arriviamo alla frittata. Ecco, un fondo sovrano, poi il libro si spiega molto bene come si sono svolte le vicende, come mai si è avuto anche un momento in cui si è parlato di riciclaggio di denaro sporco, non si sa bene dove siano andati certi fondi, le persone di cui si parla sono a un certo punto sparite, rifugiate sotto falsi nomi, magari a Taiwan o nella grande realtà asiatica. Però ecco, al di là di questo, possiamo dire che questo caso è un caso diciamo emblematico, un caso che testimonia di una difficoltà del sistema bancario svizzero, ticinese in particolare, di ritrovare una propria identità dopo appunto tanti cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni, gli scudi fiscali in Italia, la voluntary disclosure dell'ultimo anno, che ha comunque cambiato i rapporti tra la Svizzera e l'Italia, tra i risparmiatori o i clienti italiani e le banche svizzere. Ecco, le banche svizzere hanno cercato tutte in qualche modo di diversificare i loro affari, cioè questo scandalo è un po' la punta dell'iceberg oppure è un caso isolato? Luca Fasani. Beh, proprio isolato credo di no, perché ci sono altre banche che sono coinvolte, abbiamo detto Kutz, che però la parte private banking che è di base in Svizzera, ma c'è anche un'altra banca svizzera, la Falcon, però ce ne sono anche di quelle grandi che sono toccate, dalla DBS di Singapore, UBS che è anche svizzera, la Standard Chartered britannica. Però come dicevi è vero che con questi cambi legislativi sul segreto bancario ci sono banche svizzere che si sono buttate su nuovi mercati, il che naturalmente comporta dei rischi. Cioè le grandi banche, per capirci un UBS, un Credit Suisse, erano già dappertutto, erano già globali, per loro non è che sia cambiato chissà cosa. Le piccole banche, al loro mercato qui, non cambia niente. Era un po' per le banche di fascia media, tipo BSI, che è cambiato il mondo, BSI che gestiva un'ottantina di miliardi, anzi gestisce tuttora un'ottantina di miliardi di euro di fondi della clientela. E sono queste banche che hanno cercato nuovi mercati e naturalmente, l'abbiamo detto prima, nuovi mercati vuol dire anche nuovi rischi, e qui ci ha messo diciamo sui riflettori anche il nostro regolatore, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA, che ha detto va bene, ci sono nuove opportunità nei paesi emergenti, però fate attenzione. Ecco, in questo senso anche l'intervento della FINMA in qualche modo è stato soggetto a un po' di polemiche, è intervenuta da un giorno all'altro, peraltro con un provvedimento che dà 12 mesi di tempo per la sua esecutività, e quindi ha detto questa banca non funziona, si rimette a posto in 12 mesi, però questo ha provocato un po' una scossone, i clienti ovviamente sono rimasti un po' sconcertati, qualcuno se n'è andato ovviamente, e quindi la stessa banca ha rischiato o rischia ancora di essere in cattive acque. Il provvedimento appunto dell'autorità di controllo non è stato forse un provvedimento forse un po' frettoloso? Ecco, qui c'è la polemica, perché è veramente stato uno schiaffo, un cartellino rosso quando magari poteva bastare quello giallo, perché la FINMA, questa autorità di vigilanza, ha lasciato capire diamo anche un segnale ai mercati, ma gli ha detto ragazzi, ma voi state approfittando di una banca che già si sapeva che veniva integrata in un'altra banca, questa EFG che l'ha acquisita. Allora, non è che siete andati giù pesanti, per modo di dire, perché sapevate che tanto con questa integrazione la banca spariva in ogni caso. Cioè, fare un esempio, dare l'esempio però di una banca sana, perché l'ho detto prima, non c'è nessun problema di liquidità, di bilanci o altro, è una misura amministrativa su una banca che già si stava fusionando con un'altra. Certo. E qui dice, ma ci siete andati giù così, tanto per dar l'esempio, perché BSI? Ecco, appunto, perché BSI? Forse appunto perché era la punta di un iceberg, si è voluto dare un segnale. Dice anche Paolo Bernasconi nella sua prefazione che questo libro è un libro che non è solo un libro di storia, posso aggiungere non è solo un libro giallo, anche se a molti aspetti del libro giallo, è anche un libro di educazione civica, è anche un libro che vuole in qualche modo sollevare un velo. Una volta caduto il segreto bancario, adesso bisogna che cadano anche i segreti un po' sulle gestioni, sulle opportunità che hanno le banche, in qualche modo maggiore trasparenza. È in questa prospettiva che si sta avviando il mercato mercato bancario svizzero, Luca Fasani? Decisamente, perché è cambiato il mondo attorno a noi dal 2009, pensiamo al G20 di Londra che aveva, diciamo, imposto il cambio delle regole sul segreto bancario a livello internazionale. Per quello ci si sta adattando e, come detto, le banche si stanno muovendo, chi tentando di vendere nuovi prodotti, chi spostandosi su nuovi mercati per attirare nuova clientela. Ecco, in questa prospettiva quindi c'è un futuro per il sistema bancario svizzero. Dal tuo osservatorio, guardando appunto alla realtà, le banche stanno rispondendo in maniera costruttiva. C'è stato un momento in cui sembravano giocare solo in difesa, magari cercando delle scappatoie. In questo periodo stanno invece guardando costruttivamente a rapporti più aperti, più trasparenti e in fondo anche più al servizio dell'economia e delle famiglie? Ma diciamo che al servizio dell'economia e delle famiglie questo sostegno delle banche in Svizzera non è mai mancato, perché la crisi l'abbiamo avuta sì, l'abbiamo avuta no. È che le banche svizzere si sono ancora rivelate il rifugio, pensiamo a tutti i problemi della zona euro anche nel resto del mondo, che nonostante tutti i problemi continuano ad attirare capitali. Cosa che poi ci causa problemi magari certo. Con l'industria, perché si rafforza il franco. Però come settore bancario di futuro ce n'è, come diceva qualcuno, se qualcuno è fiero di far vedere l'orologio svizzero, ecco, dobbiamo muoverci in modo che fra un po' qualcuno sarà fiero di andare in giro a dire io ho messo i soldi in Svizzera. E senza appunto avere la paura di essere visto come un evasore, si possono mettere i soldi in Svizzera soprattutto se sono guadagnati bene e dichiarati tutti al fisco dei rispettivi paesi. Grazie a Luca Fasani per averci appunto illustrato un po' i problemi, le prospettive, gli scandali ma anche le opportunità del sistema bancario svizzero, che, di cui si parla molto, ma che questo libro, ricordo il titolo, BSI fuori rotta, questo libro aiuta ad approfondire. È un libro giallo, come dicevo, un libro di cronaca, un libro di storia, un libro in cui emergono i tanti problemi anche dei controlli del sistema finanziario, un sistema finanziario che però ritrova il suo equilibrio soprattutto se le autorità sanno gestire bene, sanno controllare, sanno dare delle buone regole, sanno applicarle in maniera razionale. Grazie a Luca Fasani, ricordo ancora il titolo, BSI fuori rotta, edito da Casa Grande, sono 160 pagine per 23 euro. Grazie anche ad Andrea Roccabella in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.